Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto. Numero quale? Perché se il numero io parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. No, se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud, non è ma che cosa fa? Non fate niente al sud e risponde con volgarità. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come si vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Eccomi ragazzi, di ritorno. Ho avuto qualche cosa da fare, comunque non vi preoccupate. Allora, oggi con questo cominciamo con i coglioni della zanzara di Radio 24. Il primo è quello che prima o poi gli aveva detto il naso, sto coglione qua. Questo è Longoni che fa rima con coglioni. Io non sono un mister bello. Ma ti sei proprio brutto, dicono in Emilia Romagna, sei proprio brutto. C'hai un naso che ti pisce in bocca, tipico degli ebrei. E beh, Radio 24 è una radio degli ebrei, la maggior parte. Ma non ci sei solo tu, coglione. Questo coglione qua, di Ramelli, che so che abiti a Verona. Sai che c'è un faccia di merda e un coglione. Pezzente, un morte fam, non scopire merda e non urinare certo. Si te mort. Comunque ricordatevi che Mauro D'Amato non dimentica, e quello che uno fa a me io glielo rifaccio con gli interessi. Ricordatevelo, pagliacci. E non andate a rompere i coglioni a Spazzalino, perché Spazzalino che colpa ne ha? Siamo stati provocati quando eravamo là a Telecittà, siamo stati provocati da Mercù su indirizzo tuo e di quell'altro imbecille Frocia di Frocia Renzo. L'hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte. Io, Carmela, prostituta di Parioli, auguro a Parezzo ogni successo su canale La 7, la tua trasmissione in onda e non in culo. Peccio a te! Matteo! To cornuta cazzo, to che ha detto poveraccia, cioè, ma che ha detto, ma che ha detto Carmela, ti augura il grande successo. Non la voglio sentire più, non perché in questa tradizione il nome La 7 non va pronunciato, si può pronunciare a Focus Economia. Scusa, qua in Carmela, questa trasmissione è una non pronunciate prostituta dei Parioli, me ne frego, molto reputata, me ne frego, molto conosciuta, facesse in bocca al lupo del debito, ti fa un bocca al lupo, ti fa gli auguri, tantissimi auguri, per due generazioni, cornuti tutte e due, ma guarda te, io sono scaramantico pure, ma perché oh Crucia, io alla fine me la sono spizzata a Carmela, quella allora? Dei Parioli, sì. Buona è buona, solo che secondo me prima si chiamava Ruggero, cioè hai visto che piede che c'ha, tipo 43 di piede, pensate. Era un uomo, ma Carmelo sicuro? Belle. Ma che ci sei? Non c'è niente di male, amici miei. Monte Rosa 91 20 149 Milano. Buonasera. In diretta ancora per pochi giorni dalla sede romana del Sole 24 Ore, Radio 24, David Parenzo. Buonasera, ti buonasera, giuro, cari amici. Ti porto Carmela. Un caro saluto, ti intanto, porto Carmela a via, dove cazzo è? A via Novaro. Ti porto all'Aventino, ti portala. Porto Carmela. Buonasera cari amici, un caro saluto intanto al direttore del Sole 24 Ore e un, pro, e un saluto affettuoso alla Confindustria. Perché? E grazie, grazie. Mi chiedo soltanto, ma lo faccio con umiltà, perché questa trasmissione va in onda? Io ve lo chiedo davvero, è contro il mio interesse, vi assicuro amici. Non si possono mandare in onda chiedo, le puttane? Ve lo non chiedo, si possono mandare in onda le puttane che fanno gli auguri? È compatibile tutto ciò? Io lo chiedo, è una domanda. Dici, guardate, con la ragione sociale. Va contro il mio interesse, lo so. Io adesso tra poco arriverà la mia quarta figlia e quindi va contro il mio interesse. Ma è compatibile tutto questo? Cioè con la ragione sociale, dici, con non la ragione lo so, sociale. È compatibile con tutto questo? Ma non te lo puoi chiedere dopo tanti anni, perché rischi veramente. Me lo di chiedo essere... perché lo so, rischierò. Rischierò, allora, ragazzi, ma almeno sarò quello che l'ha detto. Partiamo che si è fatto da una domanda. Cosa, partiamo da una cosa. Allora, partiamo da una cosa. Una riflessione importante. L'Europa, l'Europa. Ma vaffanculo, dell'Europa. EasyJet. Ora, è così scandaloso che i signori di EasyJet, per fare, diciamo, per aprire al turismo in Calabria, nelle Calabrie, abbiano scritto quello che hanno scritto? Sì. Potete andare sul web. È uno scandalo. Poi hanno chiesto scusa, ovviamente. Cioè, è davvero uno scandalo. Hanno sbagliato quando dicono che per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti. Dai, ma come si fa? Non so, i terremoti, francamente, non lo so. Attività mafiosa, questo non si può negare. Non si può negare. Lo metti in una locandina pubblicitaria. E la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia, capaci di attrarre i fan di Instagram. Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Cioè, in fin dei conti, è un incentivo ad andare nelle Calabrie. Ma non è un cazzate, incentivo ma assoluto. Come si fa? È un danno enorme. Ci sono due cose pazzesco su cui hanno ragione. Ma allora andassero fino in fondo e dicessero: vuoi vivere un'esperienza elettrizzante? Vuoi vivere in compagnia della mala? Vuoi fare un'esperienza in una con l'anonima sequestri? Vai in Sardegna. Ma ti pare? Appunto, no, ma voglio dire, per ogni regione, vuoi vivere un'esperienza elettrizzante? Conoscere i più grandi boss mafiosi della Sicilia di Totò Riina, ecco per te, vai a Palermo. Ma tu ti rendi conto? Vuoi fare un tour dei covid degli indranghetisti? Vuoi fare un tour nelle case dove sono, nella Locride? Vuoi vivere l'esperienza sanitaria in Lombardia? Vuoi essere come Roberto Formigoni? Vola in Lombardia, ma che cazzo vuol dire? Ma siamo alla follia più assoluta, no? Vuoi vivere un'esperienza elettrizzante? Vuoi fare come il direttore del quotidiano Libero? Vai a Berga e dirigi con lui un numero del giornale. Ma che cazzo, è incredibile, cioè, no, voglio dire, no, dire puoi fare una cosa, qualunque normale. Cosa lo puoi fare, eh? Vuoi dare del culattone a qualcuno? Vieni a Milano, lavora per Libero, compreso nel biglietto aereo c'è pure una giornata in redazione con il direttore e poi tutti a berci uno spritz. Ma ti pare una pubblicità normale da fare? Voglio dire, uno volendo potrebbe fare anche così, no? Oh, ma c'è pure qualcuno del governo che è intervenuto, Morra, c'è ragione, che non so. Ragione, ottimo, sì, Morra. Anche in Portogallo c'è mafia, adesso, ragazzi, però adesso non vogliamo vogliamo confrontare il Portogallo con la Calabria, cioè con il passato della Calabria. Ma cosa vuol dire? Una è volta detta Calabria Saudita, ho capito, tutto globalizzato, ormai l'Andrangheta è un'altra cosa. Per io carità, peraltro sono stato a Tropea un po' di tempo fa. Ho capito, città ma meravigliosa, ragazzi. Ma meravigliosa. Sì, ma che c'entra questo? Però tu stai insultando anche la Calabria. No, infatti, non sto insultando la Calabria. Ho detto amici, che va bene, che tutta pubblicità per la Calabria. Ma non credo, ma è negativa. Ma chi è che ci va dopo averle? Ma come no, EasyJet fa una pubblicità in diretta dicendo che fino adesso non ci sono città iconiche, è vero. Non c'è Roma, non c'è Venezia. Questo non c'è dubbio. Dove cazzo vai? A Catanzaro? A Catanzaro? Che, che cos'è? Sei mai stato a Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? No, sono mai stato a Catanzaro. Non voglio dire niente. Sei stato a Catanzaro? Non è che uno va. No, sono stato a Reggio Calabria. Tu come turista vai a Tropea, con tutto il rispetto, stato. Voglio dire, adesso non diranno Catanzaro. Ma Catanzaro, ragazzi. Catanzaro. Beh, no, stato a Catanzaro? A Catanzaro sei mai stato a Catanzaro, no, amico mio? Dire, no, ma voglio non dire... dico niente, non voglio dire niente. Ma sei mai stato a Catanzaro? Io non voglio dire niente. Ma sei mai stato a Catanzaro? Tu stai distruggendo, non solo hai distrutto questo paese, stai distruggendo le aziende. Ma sei mai stato... facendo... Ma adesso stai distruggendo l'economia di una città. Stai distruggendo l'economia di una città. Ma sei mai stato a Catanzaro? Città. Tu sei, io personalmente io non voglio dire, non aggiungo altro, è solo una frase. No, sei mai stato a Catanzaro? No, non sono mai stato a Catanzaro. Cosa vuoi dire? E allora, cari amici inglesi, sì, certamente è giusto fare riferimento all'Ndrangheta, ma morra, sappiatelo, morra, l'Ndrangheta sì, come sono è attimati, presente no? in ben 5 continenti e in oltre 30 nazioni. Vabbè, sì, per caso voi inglesi non andate a fare le vacanze, non lo so, anche in Spagna, anche in Portogallo, anche in Olanda, anche in Germania, per adesso? Caso in quei paesi non ci sono locali di 'Ndrangheta? Ne parleremo stasera. Ma stasera fuori dal conco. Ragazzi, poi c'è la l'arresto di Emilio Fede. L'arresto questo, di Emilio Fede. Storia, posso dirti? Ma cosa? Questo cosa? È triste. A 89 anni. Era gli arresti domiciliari, forse si è sbagliato, ha fatto un viaggio a Napoli, erano appena finiti gli arresti domiciliari dove iniziare a fare i servizi sociali, dopo una condanna, dico io, assurda, 4 anni e 7 mesi. Vabbè, questo è... Beh no, amico mio, questa è la follia, è l'istigazione, là come si chiama, il favoreggiamento della prostituzione, Emilio Fede per aver portato forse alcune mignotte o alcune signorine a casa di Berlusconi, favoreggiamento della prostituzione, ma lasciamo perdere, condanna definitiva, 4 anni e 7 mesi, gli scadono i domiciliari, cioè sconta 7 mesi ai domiciliari, probabilmente si sbaglia col permesso, va Napoli e l'arrestano al ristorante con la moglie. Sì, va bene, la legge è legge, per carità. 89 anni, direi. Dai. Compio gli anni domani, quindi ieri pensavo da Milano e vengo a Napoli, cedo con mia moglie perché non voglio napoletana vivere a Napoli. Allora? Io e lei siamo andati a Sant' Antonio a mangiarci una pizza. In quel momento c'è del casino. Il padrone con un amico dice: vieni dentro Emilio, ci sono i carabinieri, ti stanno cercando. Sono venuti un ufficiale e 3 o 4 carabinieri. Per che cosa? Per niente. Evasione. Dall'essere assegnato al servizio sociale, niente, praticamente. Mobility, carabinieri, un ufficiale, cose da matti, ma cose da pazzi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Io potevo essere stipendiata. Quanti soldi devi avere? Da lì. Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo! No, Emilio, scusa, ma perché sei arrabbiato con loro? Ma avete rotto i coglioni! Siete delle merde! 15.000 euro! Ho rubato! Ma che è successo? Scusa, sei arrabbiato? È andata a fanculo! Menagramo d'un menagramo! Noi lo ricordiamo così, caro David, lo ricordiamo così in grandissimo polvero. La legge è legge, ovviamente. La legge è legge perché se un immigrato si fosse trovato nella stessa condizione del nostro amico direttore, sarebbe tu stato sbattuto in galera. Un piccolo permesso non firmato, un piccolo errore, un piccolo ritardo, sbatte un immigrato in galera. Quello sicuro, perché la legge è legge. Dopodiché, bisogna capire, a 89 anni sicuramente non è che scappa chissà dove, Emilione Nazionale. Ho capito, però se uno evade, tecnicamente un evaso. Tecnicamente, certo. Un evaso, tecnicamente, certo. Al ristorante con la moglie gli dicono: prego, venga con noi, esattamente, eccetera, esattamente, con noi. È su questo, però, ragazzi, certo. 89 anni, mandatela a pizzicare dopo in albergo, no, al ristorante, tanto dove cazzo può andare, dai, Milione, su, vabbè, però la legge è così, certo. Ho capito, intanto il vice ministro Cancelleri, sempre 5 stars, beh, a un certo punto si sbaglia e dice: ecco, le navi da crociera stanno tornando i turisti, ma era una nave per immigrati che stanno facendo la, come si chiama, la quarantena. Ho visto che c'è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti, questo significa che, non che tanto ci sono prospettive. Dobbiamo cercare di migliorare ancora di più e far diventare questa cosa un'opportunità sempre maggiore. È il traghetto. È traghetto, vabbè. È traghetto. Sì. C'è pure la mobilità. Non è turistica. Dico, passa, è questo qua. Vabbè. incredibile, c'è un cancelleri. Evviva, ma almeno informatelo, no? Informatelo, dico mio. C'è quelli che gli stanno intorno, informatelo che non è una nave da crociera. Dai, incredibile, cazzo, incredibile. Dai. Porro contro i terroristi del virus. Che era continuano, una volta, I terroristi del virus che continuano a rompere i coglioni. I terroristi del virus continuano a rompere i coglioni. Ancora i casi, pochissimi in Italia. Certo, ci sono altri focolai. Benissimo, i focolai. Diciamolo, ma certo, i focolai vengono messi sotto controllo. Guarda in Germania cosa sta accadendo. Ma guarda che cosa ha detto Angela Merkel. Non stanno chiudendo tutto il paese. Guarda cosa ha detto Angela Merkel. Non stanno chiudendo tutto il paese. Guarda cosa ha detto la Merkel in Germania. Sei un terrorista. Sei un terrorista. Sei ancora una volta il manutengolo. Non so di chi stavolta. Hai vissuto per dei mesi con le gambe che giustamente ti facevano Giacomo per la paura. Ed era una paura giustificata, visto che la Lombardia era la regione più infettata d'Italia. E ora improvvisamente vieni qui a fare l'eroe pagliaccio che dice non c'è nessun problema, non c'è paura del virus. No, perché i focolai vengono controllati, i focolai vengono isolati. Ma che sai tu dei focolai? Che ne sai tu? È come affidare il reparto di terapia intensiva a Vanna Marchi e signore e sorelle e figlia. Ma io non voglio nessun affidamento da Vanna Marchi, figlia, e quell'altro di donascimento. Io vorrei che venisse affidato il reparto di terapia intensiva dove tu ti curerai a donascimento, primario donascimento, aiuto primario, la figlia, siete la signora Nobile, e il capo di tutta la struttura sanitaria ti metterei la Vanna Marchi, che appena entra uno che col Covid dice come sta? D'accordo! Sto malissimo! D'accordo! Ora lo intubiamo a 70.000 euro! Come è stato mirato? Devi intubare, cioè sto malissimo, sto male. Tu meriteresti questo, tu meriteresti. Io non ti auguro nulla, ovviamente. Non ti auguro di prendere il Covid. Non ti auguro. No. Ragazzi, io, ovviamente. Mi segnalano. Se fai così il superficiale. Sì. Ma che superficiale. Io ti auguro di trovarti in corsia. Io ormai, Vanna Marchi. Ormai sono gottardiano di ferro. Posso dirti su quello? Sono gottardiano di ferro. Sì, un altro allora. Generale Pappalardo. Lì. Il Pappalardo di Padova. Allora, 10 scienziati firmano un documento. In Italia ormai. È raro il ricovero per coronavirus. Impennata di debolmente positivi. E in Germania come mai? A fare in culo. E in Germania? In Germania isolano quelli che devono isolare senza rompere i coglioni all'altra gente, chiaro? A tutto lo scibile umano, non rompere il cazzo. Se uno deve essere isolato, si isola una singola persona, facciano il lockdown su 500.000 persone senza rompere troppi coglioni. Infatti questo si sta dicendo. Dai, porro, dai. In cui siamo l'unico paese che ancora non ha capito come riprendere le scuole, in cui i centri estivi tennistici, i centri estivi delle spiagge, i bar, i ristoranti, i professionisti, le fiere non sanno come riprendere, e noi siamo lì giornalisti che godiamo la fase acuta, c'è ancora in Lombardia, ma vaffanculo, moriremo di questa paura. Io so che quando ti metto capezzone sbrocchi. Sbrocchi ma... completamente. Sbrocchi totalmente. Sentiamolo contro la Fedeli. Contro la Fedeli. Sulla scuola. Senti. Io ti dico però una cosa molto seria. Ma le scuole sono chiuse, senatrice. E il tuo capito. Ministro le vuole tenere chiuse, non sbaglia, si sa ancora. E sì. Sbaglia, glielo si dice a me. E allora sfiduciala, no, è la seconda ma ministra che devi sfiduciare. Ma cosa c'entra fiducia? Voglio risolvere il problema. Raccontato il problema, sai come va risolto. Degli iglu, delle cazzate, uno per volta. È un governo fantastico. Di coalizione, ci sono delle opinioni diverse nel governo. Quindi adesso siccome no, non è adesso, un altro è sempre partito, stato un governo ma di coalizione, ma fate dai. Ridere. Ma no, ma no, no, no, fate ridere. Siccome Grillina non è questo, non te lo consento. Ma non ve lo consentono gli italiani. Esatto, ma vergognati. Fermi, esatto, ma gli italiani ci arrivano prima di te a capire le posizioni. Ce l'ho. Capezzone. Sì, ma allora nell'ordine numero uno, secondo. terzo. Posso dirti una cosa? Ma purtroppo, cosa? Purtroppo. La parola vergogna, quante volte la pronuncia Capezzone? Vergogna, lui che è stato radicale, lui che è stato radicale, ha dimenticato tutte le battaglie libertarie. Ma chi te l'ha detto? E ora è diventato un reazionario, dell'ultimo. Reazionario. E allora uno, ma che cazzo dici? Un reazionario ma vero. Ma reazionario, te chi sono i reazionari? Uno, ma che cazzo dici? Sai cosa vuol dire? Ma reazionario, reazionario sei tu, magari, sei tu reazionario. Un vero reazionario. Ma tu sei pazzo totale. E allora io dico vergogna e dico uno, due e tre. Ma dai. Comunque ragazzi, purtroppo il governo Conte durerà fino al 2023. Tu lo sai perché? Perché il divino Telma, ha detto che cadrà nel 2021. Purtroppo cadrà nel 2021. Il divino Telma ha detto che cadrà nel 2021. Quando finito. L'ha detto questo? L'ha detto oggi, non so. Ah, l'ha detto oggi. Senti su Instagram. Sentiamo su Instagram. Quindi noi crediamo che lui potrà andare avanti ancora per qualche tempo, certamente sorpassando questo anno, ma poi inevitabilmente si troverà, quando gli italiani constateranno che la rinascita annunciata non c'è, che invece ci sarà una crescente disoccupazione, che molte aziende falliranno una dopo porta l'altra, la sfiga, poi, mamma mia. A quel punto per Gattamotta nel 2021 nasceranno notevolissimi problemi e più di uno cercherà di fargli la pelle. Sì, ma non ha detto un cazzo praticamente, cioè che qualcuno cerchi di fare la pelle a Conte, quello è normale, è la solita roba. Solita cazzata, ha leggiucchiato male. Comunque due o tre posso giornali. Dirti una cosa, che secondo me Capezzone in un dibattito con te ti mangia in testa. Posso dirti una cosa, ti fa un culo così per... Allora secondo diciamo me ti fa... uno, no, due, ma lascia perdere la pantomima. Vergogna. Sì, allora, ma ti fa un culo così in un confronto, ti fa un buco di culo così. Questa è la realtà, in un confronto, in un tête à tête. No, ma io lo conosco un sacco di tempo, ma non è amico mio. No, ma ti fa un culo. Allora diciamo uno. Ti fa vergogna, un culo così in un confronto tetta tetta, ti fa un mazzo così, ti fa un mazzo così. Ma figuriamoci, amico ma mio, figuriamoci, ma figuriamoci. Stefano da Roma, ti fa un mazzo così? No, me non me ne frega niente. Basta, ma ti che fa gli un mazzo dici, così. Vergogna, ma cosa c'entra? Quello tu fai la tanto la limitazione, va bene, che c'entra? Stefano dai, da Roma. Ma figurati. Cioè, per te chiunque, chiunque sia, diciamo, leggermente dalla parte di centrodestra magari, eccetera eccetera, chiunque sia è un cretino. Soprattutto se viene dall'altra parte. Ma dai, no, vai, non culo, ho detto. No, Stefano, no, dai, no, mai, non mi permetterei mai di dire questo. Stefano, dimmi. Persone molto molto intelligenti, molto in gamba. La questione di EasyJet della pubblicità. Io non so come cazzo si fa a dire che sia stata una pubblicità positiva. Ma sì, amico mio, ma certo, bravo. Ma è tutta pubblicità, dai, su un ma gioco delle parti, cosa, dai, c'è l'indignazione, sono stato a Catanzaro, all'attacco, dai, ascoltatori, all'attacco, Catanzaro, ragazzi, amici miei, non puoi dire pronto. Nulla, va bene, c'è un piccolo centro magari, cioè, ma Catanzaro, ragazzi, Catanzaro, Catanzaro è un mare della Madonna, Catanzaro, ma sì, ma il mare, tutto, lascia perdere, ma io ti parlo di Catanzaro, soverato, certo, tu il mare dove te lo facevi, a Ostia, i cancelli, ma vai a cagare, ma non è quello il punto, Stefano. Ma la Catanzaro ricordi? Città, non mi dire che è bella Catanzaro? È bella Catanzaro? Un mare ma lascia perdere, il mare. Catanzaro mare della Madonna. Sì, sì, c'è Catanzaro e Catanzaro Sud. Ma che Catanzaro c'è? Catanzaro Sud è sul mare. Se non la conosci, che cazzo dici? No, ma la conosco benissimo. Bello. Io chi fa vive a Catanzaro si fa il bagno a Copanella. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ragazzi, ma sei mai andato? Catanzaro città, in alto. Catanzaro città, com'è? Catanzaro città, esiste la ma io abito a Milano, imbecille, abito a Milano. Io dico Roma, Catanzaro città, che roba perfetto, è? Perfetto, Catanzaro nord e c'è Catanzaro sud, vabbè, sud buonanotte, è no, questo vai su Wikipedia, questo non è che uno se ne inventa. Ma no, ho capito, ma Catanzaro, ma dai, su, ma adesso dico Catanzaro. Tu se nasce a Cuneo, il bagno te lo fai al cazzo. Fermi tutti, sapevo che si scatenavano i calabresi, fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da... Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Guarda, è qui che costruiremo la nuova sede. Adesso? Sì, è il momento di investire. Sei matto. Me l'hai già detto, ma quante volte seguire i nostri sogni ci ha dato ragione? Le opportunità sono di chi le sa cogliere. Scegli la tua nuova Porsche oggi e inizia a pagarla tra un anno. Restart Lease è la risposta di Porsche per superare questo momento e ripartire insieme. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni, consultare i fogli formativi presso i concessionari aderenti e su Porsche.it. Offerta valida fino al 10 agosto 2020, salvo approvazione della finanziaria. La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamate un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Dica, dica, dica, parli, parli, dica. E invece io me li voglio far vedere, tutti e cinque, dai, fammeli vedere tutti e cinque, i nostri rom, ce li abbiamo, ce l'abbiamo la foto. No, no, no, questa qui l'ho uccisa, non l'ho uccisa. Sì, io vedo molto negativo. Ciao, sono Nino da Palermo. Dimmi, Nino. Io praticamente ogni mattina, dopo che faccio la cacca, mi alzo, taglio il gabinetto e dico ciao David, e poi tira la catenella. I love my radio. Viva la donna, viva la figa, viva il sicchio, e abbassi i froci, i rotti in culo, e i tanze, e i pervertiti. Viva il sicchio, I love my radio. Ma nessuno, però nessuno ha mai messo in discussione nulla di queste cose, se lui le vuole manifestare. Il mitico Nino, Nino, Nino, Nino, Nino. Che è il più devastante messaggio per chi vuole andare a farsi una vacanza in Sicilia. Cioè, tu dici che molto Nino, chiaro, ex Grillo Parmitano, sta quasi alla pubblicità della EasyJet. Abbiamo Lino da Catanzaro, giusto, Lino appunto, da Catanzaro. Catanzaro che dovrebbe essere il mitologico Lino Polimeni, grande difensore delle Calabrie, nonché giornalista. Delle Calabrie, non ho capito cosa intendi, sembra che mi stai fottendo. Cruciani, saluto Parenzo che è molto più serio in questa fase, perché se parliamo di cose serie. Buonasera, caro amico. Non so perché, ciao, come stai, Parenzo? Dimmi, caro amico, dimmi, molto dimmi, bene, grazie, piacere sei di sentirti. Sei incazzato anche tu. Sono incazzato perché in pratica quello che sta accadendo, cioè voglio dire, si stanno mettendo sotto i piedi, stanno facendo tabula rasa di questa regione, si vogliono sfottere. EasyJet, ma che hanno detto? Hanno detto due cose giuste, una sbagliata sui terremoti, che in fin dei conti il terremoto. Ma il terremoto c'è in Campania, c'è in Emilia. Quello è sbagliato, i terremoti non c'è. Capito. Ma ho capito, la mafia c'è? Sì, la mafia c'è, sì. L'andrangheta c'è a Milano. Certo, ho capito, Roma, però il territorio, il territorio in Sicilia, non c'è, in Calabria non c'è. Non è un problema nostro, in Calabria c'è per bene un po'. In Calabria. Sono 1.800.000 persone per bene di fronte certo. ai 300, ci sono 320 famiglie di 'Ndrangheta, 80.000 affiliati, ma in rete è tutta gente per bene, cosa ci possiamo fare noi? Ma chi dice il contrario? Chi dice il contrario? Chi dice il contrario? All'attacco, dai, Polimeni, all'attacco Polimeni. Io ho semplicemente detto che non ci sono città, diciamo, simbolo, vogliamo mettere Catanzaro, Polimeni, ho detto Polimeni, Catanzaro, scrivi una lettera all'azienda. Senti, dicendo che è vergognoso il tuo comportamento. Posso di Cruciani? Posso dirti cosa fa la SACAL che costruisce i 3 aeroporti della Calabria? Reggio. Vabbè, ma questo chi se ne frega adesso? Chi se ne frega? Se ne frega? Li paghiamo! Ma quello chi se ne frega? Polimeni, dai, su! Ma cosa stai dicendo? Cruciani. Certo, li pagate per far venire la gente, sennò dove cazzo vanno se non beh, pagate? Ma 3 aeroporti, ma non dire così. Tu sai che tre. Le compagnie low cost desiderano. Vabbè, ma adesso, ma vi ha fatto una pubblicità? Questo è un EasyJet, ha fatto pubblicità? No, Parenzo, tu che sei la persona più seria di sì, quello più... che ha accanto. Le compagnie d'aereo lo so, grande tema. Viene, prende milioni di euro dalla regione Calabria per atterrare sui nostri aeroporti e portare che gente. Il uguale, ma stai scherzando? E allora? E allora, non si può dire che Calabria terra di mafia? È una cosa sbagliata dirlo, è anche terra di mafia. No, lui giustamente dice, c'è la regione comunque fa la sua politica per attrarre turisti e quant'altro. Parenzo che fa tanto il fighetto, ti vorrei ricordare, caro Parenzo, perché qui carta canta, amico mio, carta canta, ho le cartuccelle, tu non ne hai di cartuccelle. Non mi far parlare perché mi arrivano delle notizie da un'isola, ma guarda, non voglio neanche parlare. Non ne hai di cartuccelle. Mi arrivano delle notizie da un'isola, ma non voglio dire da quale. Un'isola, che c'entra l'isola? No, ma lascia che... stare. No, non voglio parlare, guarda. Ma cosa c'entra? Perché se parlo io, se casca tutto questo castello che hai costruito. Non so quando era questa frase di Parenzo, a che cosa era riferita questa cosa. Ma senti, ti faccio sentire. 10 navi con 7.300 migranti. 10 navi con 7.300 migranti. Subito di salvarli. Sbarcheranno forse in Calabria. Sì, ma queste cose annunciate ti fanno Calabria, capire. Calabria, ottimo. Calabria non c'è nulla, quindi almeno mettere delle forze nuove, basta, come dire, sottrarle alla criminalità, ma come dire, possono anzi aiutare i calabresi a diventare un po' più europei. Adesso questo è brutto. No, brutto un cazzo. Cioè, siccome in Calabria non c'è nulla. Calabria, cosa c'è? C'è un po' di mare, ci sono i bronzi di Riace, c'è un po' di criminalità. Ecco, questo tu è dici, anche la. Gli immigrati la possono questione. Aiutare. Gli immigrati, forze nuove, quindi se non finiscono, possono battere l'andrangheta, possono loro. Bravo! Se con, con l'aiuto e la presenza con l'aiuto e la presenza dello Stato, evitando che diventino manovalanza, quello bisogna evitare, possono anzi portare energie nuove a una terra. Questo è brutto quello che hai detto. Sei peggio di me quasi. Io che la chiamo Calabria Saudita, tu dici non c'è un cazzo, meglio che arrivino i migranti a dare nuova energia, nuova linfa, nuova vita. Vabbè. Polimeni, cosa dici adesso? Polimeni, hai sentito Parenzo? Mi senti? Ma come dice Parenzo della Calabria? 800 chilometri di costa meravigliosa. Ma conoscete la costa dei denti? Il mare l'ha detto. Capo Vaticano, la Praia del Fuoco, Trofea, le cinque città del sole, il Soverato, Diamante. E dillo a Parenzo che ha detto mare, bronzi e criminalità. Questo cosa dice Parenzo? Diglielo. Sei venuto in vacanza in Calabria, scusami. Ma c'è che sono venuto a Trofea, a Reggio Calabria. Mare, bronzi e criminalità. Ma così non va bene. Così non va bene. Ciao Polimene, rotto cazzo. Sempre da Catanzaro, Manuel. Oh, ragazzi, non iniziamo adesso a romperci i coglioni con Catanzaro. Manuel, dimmi, dai. Sì, no, hai rotto il cazzo. Dai, non rompere i coglioni. Dai, ho detto semplicemente. Ho detto Parenzo, che non ci sono città e simbolo. Ma che grande Parenzo che l'abbiamo beccato in castagna, dai, ogni su. Ogni tanto che Parenzo dice le sue puttanate. Ma la riflessione. Sei una testa di cazzo. Sei una testa di cazzo perché questo confermo. Dai, Catanzaro, amico mio. Catanzaro, amico mio. Ma uno va benissimo. Non puoi essere orgoglioso. Io conosco un sacco di gente. Devi essere orgoglioso, ma non puoi dire. Allora, è come la Calabria e Marina di Gioiosa Ionica, terra che ha dato i natali a Tommaso Labate, ad esempio. Diciamo la verità: tra le città più brutte, capoluoghi di provincia più brutti in Italia, Catanzaro se la batte tra le prime 10 almeno. Tra le prime 10 e Marina di Gioiosa. Lascia perdere il mare, Catanzaro. Enna, ne vogliamo parlare. Enna, che non parlo solo della mia città, io sto parlando in generale. No, ma Catanzaro è orribile, dai, ragazzi, ma è brutto. È bruttina forte. Ma tu come al solito parli di cose che non sai. Vabbè, tu è bella, allora è bella, ma non c'è ma niente non di strano. Che è bella, ma ci sono tante cose belle pure qui. Non ma chi ha detto il contrario? Sto parlando del chilometro di centro storico, sto parlando della provincia, in generale di tutta la regione. Ma quello che c'entra, la regione non tu ho detto. Ma al solito parli di cose che non sai. Ma diglielo la EasyJet, che cazzo c'entro io? Ma chi cazzo ha mai preso un aereo di EasyJet? Ma male, io prendo sempre, io no, non è una compagnia. Questo non si può dire. Anzi, le low cost hanno consentito di viaggiare molto nel mondo a prezzi contenuti. No, questa è la globalizzazione. La globalizzazione ha consentito che nascessero delle compagnie low cost. Ma che vuoi? Non ho capito, che vuoi? Che vuoi? Io volevo mandare a fare in culo. Va bene, Alessandro da Catanzaro, un altro da Catanzaro, avanti. Si è ribellato a Catanzaro, avanti. Grandissimo. Dimmi, Alessandro, io ti adoro. ma oggi ti devo attaccare a più certo. non posso. Ma giusto. Mio, io Catanzaro, il Cala Calabria va benissimo, tutto. Farei un live da Catanzaro, farei anche un live da Catanzaro. Ma Catanzaro non è tra le città più belle d'Italia, diciamo la verità. Hanno ragione questo di EasyJet quando dicono che non ci sono città simbolo che possono attrarre i turisti. Non puoi attrarre i turisti con Catanzaro, ma il mare è bello, non Catanzaro città. Ma che me frega del mare, io parlo di quello che è stato costruito dall'uomo. C'è un parco della biodiversità che è una cosa del parco della biodiversità. D'Italia. Buonanotte, ciao Core. No, ma no, c'è un piccolo, c'è un corso, insomma, sono venuto una volta, un tempo fa. Gigantesco, c'è un ponte micidiale degli anni 60 con un arco che se lo vedi ti cadono i coglioni. Dai, Alessandro, Catanzaro, dai su. No, fidati, guarda, io sono il primo. Non lo so, che non mi ricordo, ma ci sono delle brutture dal punto di vista architettonico di palazzi, eccetera, ci sono delle brutture pazzesche a Catanzaro. Ma magari ci sarà il solito. No, ma il problema vero è questo, tra le altre città, non più di altre città. Sì, ha ragione, certo. Fermi. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Auff, credi che questa mia non sia poesia? È normale, è normale. Guarda i prodigi della mia malinconia, sarò la sintesi del delirio dei matti. Vi sputo, fate schifo. Sannati, demolirò gli assiomi cementificati. Eccolo. Sono Paolo da Stoccarda e quando sono ospite a casa d'altri piscio sempre nel lavandino e mi sgrullo le ultime goccioline nell'asciugamano destinato a mani e viso. I love my radio. Ciao Parenzu, io sono Carmela de Parioli e faccio il pompini con le caramelle. Vabbè, chi se ne frega? Alla menta. Chi se ne frega? Ma vaffanculo, guarda, maledetti. Maledetti siete, dei maledetti. Questa non è male. Peraltro avete fatto una marchetta, adesso vi quereranno pure quelli delle caramelle per quello che avete fatto. Cioè riceverete due e io sarò qui e io testimonierò, mi costituirò parte civile. Brava, ti prego, chiamiamo Carmela, ti prego. Richiamiamo Carmela, ti prego. Perché ce l'abbiamo dietro, con calma. Voglio chiamare Carmela e poi voglio mettere all'inizio quando risponde ta-na-na-na. No, ecco, meglio di no. No, grazie. No. In onda, Carmela. Ma c'avete già la sigla o no? C'avete già la sigla? Ragazzi, tutti sintonizzati, dalle 20:50 ovviamente. Dalle 20:50 di lunedì, tutti sintonizzati. Dalle 20:30. Dalle 20:30. Prima si sente la radio. Dalle 20:30. Dalle 20:30. Ma prima si sente la radio. Morto la radio, dai, ho mezzo morto. Non ci sono le immagini, è finita la radio, dai. Non si vede il dolore, la televisione lo racconta. Ancora con la radio. Cioè, tu, per esempio, voci, l'arresto di Emilio Fede, l'avresti mandato in diretta. L'arresto di Emilio Fede. Quello funziona. Che cosa dice la polizia che entra dentro? C'è la polizia che arriva, naturalmente l'uomo di 89 anni con la moglie nel momento di intimità, naturalmente. Sì. La sofferenza, aspetta un attimo. Allora non si può raccontare. Aspetta, per cielo. Stiamo creando dei format. Sì, al volo. Vengo interrotto, naturalmente. Aspetta. Non starà lavorando sto cazzo di Carmela, porca puttana. Mamma mia, maledetta. No, perché voglio anche capire una certa cosa di Carmela, perché dicono, capito, che... Dai, Carmela, su, Forse non risponde però agli sconosciuti, forse non risponde, bisogna avvertirla prima, vai, avvertirla. Ecco, questa è l'altra. Questa è l'altra. C'entra turco. Che ovviamente vedrai, se la chiami vedrai. Scusi, un attimo, aspetta, riprendiamo la linea con Freccero. Lei come avrebbe fatto, diciamo, come avrebbe ripreso l'arresto di Fede, diciamo? Naturalmente l'avrei un po' drammatizzata, macchine dei carabinieri, naturalmente. Finte, in stato comparse, naturalmente. Mettere in stato d'assedio il ristorante, completamente. Ma come stato d'assedio? Armi in pugno, naturalmente. ma cosa c'entra? Armi in pugno? 89 avere anni. Le persone dentro il locale le basite costernate, impaurite naturalmente. Cioè, terrorizzare il vecchio, dici? Terrorizzare il vecchio anziano di 89 anni. Naturalmente, siccome il format dura due ore, tu lo puoi risolvere okay, tutto in pochi minuti, naturalmente. Okay. Quindi devi fare l'arrivo, dall'arrivo a sirene spiegate, naturalmente dei carabinieri, sì, l'assedio esterno del ristorante, naturalmente, telecamere interne, dramma, lui asserragliato dentro, naturalmente. Non c'è bisogno. Racconto, dai, ci vuole lo storytelling, il racconto, ma non c'è bisogno. E come faccio due ore di trasmissione io se no? Dai, tutto funzionale alla TV, poi, no? Naturalmente, telecamere sul volto emaciato, ormai rifatto, sul volto. Il dramma della, della moglie, naturalmente, sì, sì, il, certo, dramma, difesa, il dramma, sì, certo, il dramma, il dramma. Poi possibili anche colpi, possibili ambulanza fuori per possibili valori, per no? evitare magari qualche momento. Oddio, mi sento male, il momento in cui naturalmente deve la telecamera deve avere l'immagine, naturalmente. E poi fuori via via l'assedio di comparse, di persone che cominciano a urlare: maledetto, maledetto, mio figlio naturalmente. Ecco, creare quello che si chiama tecnicamente il pathos, naturalmente. Il pathos, altrimenti siamo su Rai 1, fiction, mandi la fiction altrimenti. Allora, Luigi da Latina, vai Luigi, dimmi, Luigi. Dimmi. Sì, dimmi Luigi, dimmi, dimmi. No, io volevo dire che i pompini vengono meglio con la Coca-Cola, non con la milita. Oddio, questo qua, i pompini con la Coca-Cola, avanti. Che c'entra? No, tu hai detto in trasmissione, una che fa i pompini con la caramella di milita. Sì, metti quindi bene dico, il telefono, Luigi, se vuoi parlare con me, se vuoi parlare con noi, metti bene il telefono. Sta posto, ma senti? Che telefono c'hai? Ma che telefono io hai? C'ho il cellulare piccolo, quello non c'ho lo smartphone. E perché non c'è lo smartphone? Perché? Ma che non te lo puoi me mettere? Posso, ma non fare finta di fare morto, ma di fare fame. Fare finta di che cosa? Fai finta di fare morto di fame, sei tu, ma fai finta di avere morto di fame. Allora, io sto sentendo ogni tanto le stronzate che dici tu. Beh, allora dimmi una, dai. Quella sulla Calabria, la salutazzi loro. I mafiosi, mafioso tutta l'Italia. Sì, sì. Mafioso è Emilio Fede. Che sì, Emilio Fede è mafioso, ma vai a cagare. Una condanna a 5 anni e non fa un giorno di carcere. Molti ci faccio parlare. Mafioso è il formicone. Molti ci faccio parlare con il signor Fede. Molti ci faccio parlare. Perché me lo parlare? Deve stare in carcere, a casa. In carcere. Ma vergognati. Ma c'ha 89 anni. Vergognati. Allora, ci è arrivato a 89 anni, sai perché 79 anni, cazzo, non so, perché ha mandato la causa avanti con le sue conoscenze. Ma vattene a fanculo. Ma quale conoscenza? Ma vattene a fanculo, capisci in cazzo. Aspetta, molti ci faccio, diglielo in faccia, Emilio Fede. Ma diglielo in faccia che deve stare in galera di un mafioso. Lui è privilegiato, che con una condanna di 5 anni non hanno conosciuto il Chiavistello. Lo sai chi è Chiavistello? La chiave del caldo e della cella, capito? Non è che se uno è andato in galera come sei andato tu. Come sei andato tu, allora devono andare tutti quanta in galera. Quanta cattiveria, però, quanta cattiveria. Tu hai sostenuto Cottardo. Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Aspetta, vediamo se hai il coraggio di dirglielo, vediamo. Emilio. Aspetta, ma stai zitto. Non ha conosciuto il Chiavistello. Non ha conosciuto, pensa che vergogna questo qua. Mamma mia, povero Chiavistello. Vergogna se è lui. Manni, ma sei in Calabria, ma sei ce l'hai a Milano, stronzo. Capito, quanta cattiveria. Aspetta, ma perché non risponde Emilio? Diglielo in faccia, vediamo se hai il coraggio di dirglielo in faccia, buffone. Ma che coraggio deve avere? Ma che coraggio? Risponde la segreteria. Da 5 anni non ha conosciuto il Chiavistello. Ma che c'entra? C'ha 89 anni. Che deve? Ma il favoreggiamento. Ce n'ha 89. Favoreggiamento della prostituzione è un reato che non esiste, tra l'altro. Ridicolo. Favoreggiamento della prostituzione è il peggio reato infamante che c'è. Ma quando mai dovrebbe essere eliminato? Favoreggiamento dovrebbe essere eliminato. Rendi conto che sei a dite? Sì, dovrebbe. Ma che ragazzine, che c'è? Quelle erano maggiorenni, imbecille. Erano maggiorenni. Capaci di intendere di. Ma come no? Ma che c'è? Favoreggiamento alla prostituzione? Mica erano minorenni, cretino. Non capisci nulla, imbecille. È colpa del sfruttamento la prostituzione reale. No, quello è favoreggiamento, non capisci una sega. È uguale. Aspetta. Capisci te? Aspetta, cretino. Emilio? No, ha sbagliato il tuo numero. Scusi. Wow! Meno male che hanno sbagliato numero qua la regia, avremmo fatto un numero diverso. Certo, ma qual è il numero diverso? Ma guarda, non c'è, guarda che è tanto chiaro. Lo sa quanti ce ne stanno, come mi sapete, che fanno il carcere? Ma che t'ha fatto però? Ma uno ha 89 anni, che t'ha fatto? Ma che t'ha fatto 89 anni? Che t'ha fatto? Ma questo è un represso, ma questo ma questo è un frustrato. Ma questo è un frustrato, Luigi. Allora ma lui aveva finiti gli arresti. Mi fai parlare? Lo sai che vuol dire arresti domiciliari? Che tu sei carcerato. Non puoi farti la testa tua, di certo, a mangiare la pizza al ristorante, ma che cazzo? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma l'aveva finito? Ma li aveva finiti, li aveva finiti. Beh, che vuole un po' da ristorante. Questo è già il compleanno. Aspetta, aspetta un attimo. Aspetta. Aspetta, qui è tutto in diretta. Pronto? Emilio? Sono Cruciani, scusa, c'è uno stronzo qui, scusami. Siamo in diretta, Emilio. C'è uno stronzo che dice che tu dovresti stare in galera. Gli vuoi rispondere tu per le rime, per favore? Luigi, diglielo in faccia. Sì, per favore. Sì, Emilio. Sì. Emilio. No, ti porto con me, però ti porto con me. Bravo. Ti porto con me, Emilio. Aspetta, Emilio. Quattro anni e nove mesi non hai conosciuto la cella del carcere. Come mai? Ma come mai? Meno male. Sei un privilegiato, quattro anni e sette mesi. Ah, sei un privilegiato, lo dici che sei un privilegiato. Ma mandalo a fare in culo, Emilio, mandalo a fare in culo questo qua. Mandalo a fare in culo, ma fammi parlare, stronzo, l'ha messo in linea. Fammi parlare, pezzo di dimmi. Vediamo che c'ha ragione, no? Zitto, Emilio, rispondi a questo qua. Rispondi a questo che dice che dovresti essere in galera, cazzo. Oh, senti, dimmi, Emilio. Tu non hai un cazzo da fare. Bravo, cioè, bravo. In questo momento, sì, del virus e dopo virus, ci sono tanti cessi che sono riempiti. Ah, vai a ripulire i cessi. Bravo. Io ci vado a cagare i cessi, Emilio. Ma che c'entra? Che c'entra i cessi? Stiamo a parlare di un reato. Ma che reato? Stiamo parlando di un reato infamante che tu hai fatto. Tu hai fatto un reato da pappone. Da pappone. Perché intervenite? Perché intervenite? Siete dei cazzoni. Siete dei cazzoni. Siete degli strafalcioni. Bravo, sono dei cazzoni. Digli, intervengono perché hanno letto la notizia e pensano che tu devi stare in galera. Dovevi stare in galera invece di fare i domiciliari. Diglielo come funziona, che hai 89 anni. Diglielo a questo coglione della Latina. Dai, coglione, ha 89 anni in carcere, non va nessuno. Bravo. Io, con la mia storia, e non avendo fatto niente, va bene, vado in carcere, ma sei scemo in testa. Ecco, Luigi, rispondi. Rispondi. Che hai detto? Io conto la condanna che tu hai avuto. Tu hai preso dei soldi per portare le puttane ai ricchi. Ma che c'è? Quale puttane ai ricchi? Cretino! C'è una condanna, non lo perché voglio dire la verità. La condanna è quella. Aspetta. Tutte. Però non ho incontrato tua moglie. Non hai incontrato tua moglie, dice Luigi. Che delusione. Perché questo che cioè io non voglio offendere tua moglie, per carità. Tu hai portato le puttane a dei. Ma che dici? Ma che vuol dire? Ma che dici? C'è una condanna, stronzo. E allora che c'entra? La condanna è uno. Che lui ha fatto questo reato. Allora... Lui ha fatto questo reato. Allora uno deve andare in carcere. Uno deve andare in carcere. Lui è più fortunato che ci ha fatto un giorno di cella. Lui è fortunato. Ma che c'è? Emilio, rispondi a questo qua del popolo, a questo Luigi da Latina. Che cosa? Che cosa deve rispondere? Sta zitto. Emilio, rispondi a sto cretino, dai. Zitto, Luigi, Emilio, vai. Rispondi a sto cretino, metti bene il telefono. Tu non rispondi più. Ma vattene a fanculo. La Zanzara. Allora, cara Valentina Nappi, sono anni che non vado a votare, non ho più il certificato elettorale e odio fare la fila presso gli sportelli pubblici, ma se ti candidi vado a fare la fila allo sportello dell'ufficio elettorale, mi rifaccio il certificato elettorale e vado a votarti. E dai! Via! Da questo canale! Just need something to focus on. Oh, oh, Allora. Pronto, Carmela? Ma chi è questa? Sì, amore. Ciao, tesoro. Ciao, tesoro. Ciao, mamma tesorino. Mia, come stai, tesoro? Come stai? Mamma mia. Io bene. Beh, ma mi hanno detto che però... Non poteva lasciare il mio numero di telefono. A chi? Sì, vuoi lasciare? No, quello è un po' favoreggiamento della prostituzione. Se lascio il tuo numero di telefono, potrebbe scattare il reato. Qui abbiamo avuto il telefono qualche istante fa. Un signore che ha preso 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento. No, però tutti andate da Carmela. Se volete provare, come dire, ecco. Uno può dire tranquillamente: se volete provare un'esperienza, diciamo sui generis, un'esperienza eccezionale, andate su internet. Fate Carmela Parioli, trovate tutto, eccetera, eccetera. Però mi hanno detto, cara Carmela, che oltre ad essere una grande fan della 7 come emissione, le posso chiedere proprio una gentilezza dal profondo del cuore, cara? Non pronunci più, ecco, no. Mi faccia una gentilezza. Quella parola, la 7, non la pronunci più. Perché no? Si occupi per piacere, occupi per piacere del debbio, dalla vostra parte. Lei non guarda mai la televisione, signora Carmela. Di Capezzone, faccia un invito a guardare la televisione. Sto sempre in un angolo di 90 gradi. Come scusa? Dove sta? Scusa, sì. Sempre a 90 gradi, ha detto. No, signora, mi dia anche guardare la televisione a 90 gradi. Mi faccia una gentilezza, cara la mia signora. Lei diventi una seguace di Capezzone. Lo conosce lei Capezzone? Non lo conosce Capezzone. Lo conosce quello che conta, quello che fa. Mario Giordano. Lo conosce Meluzzi? Lo conosce Meluzzi, il Pope? Non conosco, io appena arrivato in Italia. Allora, appena arrivato in Italia, non guardi. Allora, le faccio dire chi è Meluzzi, senta, è quel signore qua. Meluzzi, senta chi è. Senta. Noi. Alessandro I. Ecco. Al secolo Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa ortodossa italiana autocefala. Antico orientale. È una specie di prete. Le piace? Una le piace la Chiesa autocefala, signora? Vengono i preti da lei, signora? Ogni tanto sì, una volta avevo uno vestito di prete. Io pensavo che era un scherzo. Ha fatto E lui ha detto: sta zitta. E è entrato. Ha fatto tutte le cose che non ti dicono. Cioè, che ha fatto? Tu di tutto sto prete. Prete, vabbè. Scusi, signora Carmela, oltre ad essere a fare questo grande spot per la 7 che andrà in onda, programma in onda da lunedì prossimo, lei è diventata lo sponsor ufficiale. Ma col cavolo, Carmela, la prostituta dei Parioli. Non sporchiamo tutto. È diventata la prostituzione è libertà, no, gente? Assolutamente. Dunque, siamo in un mondo democratico. Un mondo libero, democratico. Sì, grazie, ma non faccia nulla. Grazie per tutto. No, ha già fatto uno spot e c'è già la virgola per lo spot, naturalmente, eccola qua. Mamma mia. Scusi Carmela, una curiosità, mi dicono però in un messaggio che lei ha una voce un po' strana, anche un numero di piedi piuttosto lungo, non è che per caso lei si è tagliata l'uccello prima di venire qua in Italia? No, io volevo avere tutte e due, no? Mi sogno era essere bisexuale pure, perché così hai più possibilità di avere amore, però io sono una donna. Ah, è una donna. Dunque, possiamo chiarire una cosa: non hai l'uccello. No. E non ce l'avevi nemmeno. No. E non ce l'avevi nemmeno prima questo uccello. Ma anche prima. Nemmeno prima. Forse come transessuale. 100% donna. Come... Il piede pure è piccolo, è 37. Ah, 37. Chi è che mi ha detto 43? Che cazzo dico? Gli ascoltatori si inventano di tutto. Ma magari hanno beccato un'altra Carmela. Ma perché Carmela poi? Perché Carmela? Perché mi piace questo nome, è bello, un nome siciliano delle donne con le tette grandi. Così immaginavo così questo nome. Provi a dire per piacere Capezzone, se ma perché può. Deve Capezzone. Dire Capezzone? Capezzone. Grazie. Come Capezzone? Lo dica ancora, Capezzone. Caro Capezzone, ti aspetto. Ecco, dica questo. Caro Capezzone, ti aspetto. Perfetto. Questo già meglio. Una bella giornata, casa mia. Un bello pompino. Sto facendo, come fai caldo, sto facendo un pompino con la fredda. Vabbè. Ah, capito che c'è il caldo con la pompino con la bocca fredda. È meraviglioso. Vabbè, a me non interessa francamente quello che fa lei, signora. Perché non ti interessa? Perché non me ne frega niente, non me ne frega nulla. Non ho provato prima di dire, devi provare, no? Grazie, sì, non prima voglio di provare no, prima niente, di dire signora, no, non me ne frega nulla. Un pompino con la bocca fredda si potrà mamma fare. Mamma mia, posso dire che non me ne interessa niente di quel che fa sta signora? Però scusa Carmela, prima di lasciarci io vorrei che tu facessi una cosa. Un grande saluto ai dirigenti di una grande televisione. Un saluto caldo, un saluto molto caldo ai dirigenti della 7. Ma perché? Ma è bellissimo, ma è un saluto bellissimo, non è una cosa offensiva. Perché considerate le prostitute come delle minus size? Ma saluti, no, ma perché non c'è bisogno di sono molto pulidina. Sono carine, educate, teniamo pure famiglia, gente, per carità. Non c'è nessun bisogno. Ma tu devi mantenere delle persone in Brasile? Devi mantenere... Sì, pure. Aspetta, fermi tutti. Allora, fermi tutti però, fermi tutti. Fermi. Che c'è? Aspetta, non è successo niente. Fermo, allora. Sì. Carmela, ecco. È stato contattato da MR per conto di Eni Gas e luce relativamente per la sua utenza di luce o gas. Ma che cazzo c'entra? Se lo desidera, digitando il tasto 1, verrà contattato. Ma cosa c'entra? Ma stai giù, Parenzo. Allora, vai che parlo la cosa della... Sì, sì, Carmela, scusa, devi fare un grande saluto a tutti i dirigenti della SES. Saluto caldamente, tutti i dirigenti di una grande televisione, la 7. Solo questo, grazie. Saluto caldamente tutta la gente di una grande dirigente di una grande televisione, la 7. La 7, brava, la 7. Grazie Carmela, grazie. Baci, pompino con la cosa, pompino con la bocca fredda, mi raccomando. Con l'acqua fredda. Ciao. La zanzara. Capezzone. È meraviglioso. Perché devo sentire gente che starnazza? Diventano tutti esperti, tutti virologi, tutti epidemiologi. Ma ragazzi, è ovvio che se ne va a puttane l'autorevolezza. Il grande filosofo francese Guy Debord, che scrisse un libro fondamentale, La Società degli Spettacoli, bravo. Dopo averlo scritto si suicidò. Ora capisco perché. Perché aveva prefigurato questo bordello ininterrotto di starnazii. Tutti bravo. Sono autorevoli, tutti parlano di bravissimo. Tutto. È l'intero sistema che è andato a puttane. Capettone. Appunto, tra l'altro. Bravissimo Monio Vadia, lucidissimo. È meraviglioso. Sì, capezzone. È l'intero sistema, ha ragione Monio Vadia. È l'intero sistema. Bellissimo, è un manifesto. Ha detto in poche parole una cosa verissima. E tu ne sei uno dei responsabili, peraltro. Poi dice: io degli inni nazionali me ne fotto, facendo sempre riferimento all'inno nazionale. Però questo non si può dire, caro. Uno, l'inno nazionale è l'inno nazionale. Poi uno se ne può anche fottere, per carità. No, per carità, questo. Io degli inni nazionali me ne fotto. Ma come? Io li vorrei sentire cantare quando ci sono da pagare le tasse. Lì non li canta nessuno. Vero, giusto paradosso che anche questo. Ogni volta. Giusto paradosso pure quello. Quando si bisogna pagare le tasse bisogna mettere l'inno nazionale, ma che c'entra? Tutti patriottici, poi vai a vedere l'evasione fiscale alle stelle in Italia. Ma cosa c'entra? Tutti patriottici però. Però sono tutti patriotti. Mamma mia, che banalità. Banalità. Sarà pure la banalità, ma tutti patriottici a cantare così. Fratelli d'Italia, Italia se desta e con l'evasione si è cinta la testa. Dai, piccoli siete. Ma cosa c'entra adesso? Stai mischiando due cose diverse. No, ha usato in Italia, un paradosso, ma ha ragione. Italia, al di là degli evasori, quelli proprio classici, eccetera, l'evasore fiscale spesso è uno che si deve salvare la pellaccia, perché altrimenti crolla per le tasse, per le troppe tasse. Amici della radio della Confindustria, da assolutamente. Un conduttore radiofonico, non il sottoscritto, sta facendo l'elogio dell'evasione fiscale. Ho detto questo. Barba a tutte le battaglie che voi amici industriali avete costruito contro l'evasione fiscale, perché i primi a aver costruito delle grandi battaglie contro l'evasione fiscale sono proprio gli industriali, che considerano l'evasione fiscale concorrenza sleale. E tu ti devi vergognare. E io mi chiedo come mai alle 20.03 questa trasmissione è ancora in onda con un signore che invita le persone a telefonare, a chiamare, certo, per dire la loro opinione sull'universo mondo. Certo. E questo branco di asini somari chiamano pensando di essere protagonisti e intervengono su tutto, è davanti, certo, alla mia lista. Intervengono su, senza sapere un cazzo di niente. Intervengono su tutto. Ma che questi quattro straccioni che telefonano qui? Io vi odio, ascoltatori che telefonate. Io no, adoro chi ascolta questa trasmissione, ma detesto dal profondo del mio cuore. Odio chi chiama in questa trasmissione. La odio dal profondo del cuore. Non mi sopporto più da 10 anni a questa parte. Non mi sopporto. Francesco da Savona, vai. Ecco, Francesco, è un'altra chiamata. Francesco da Savona. Sì, salve, io. Francesco, cosa vuole dire lei? Ah, io sono per il nazismo. Ah, grazie. Ah, no, interessante. No, scusi, Francesco, magari lei è l'unica, l'unica persona intelligente che telefona. Dimmi, Francesco, dimmi. Purtroppo Qui. Volevo intervenire sul fatto, sulla proposta di legge della Lega sul porno. Non è solo della Lega, comunque il principale, il capofila è un signore che si chiama Pillon, uno con il papillon, tra l'altro. Vabbè, certo, lui, un senatore della Lega, ultracattolico, ma va benissimo, mi sta molto simpatico anche Pillon, perché è un tipo funambolico. Però posso dirti una cosa, caro Francesco, io combatterò fino alla fine contro questa roba qua, fino alla fine, come si dice per la Juventus, contro questa roba qui. Al contrario, il bacchettone Parenzo, si trova nella stessa posizione di Pillon. Io sono un libertario. Vuoi proibire? No, ma che c'entra? Vuoi che l'accesso ai siti porno venga bloccato sin dall'inizio? Questo è il punto. Vabbè, dipende. È complessa la cosa. Modi per vedere. Ma poi quando crei la proibizione, è chiaro che poi questo è vero. Se tu impedisci alle persone, ma io sono un libertario, quindi figuriamoci. Sei partito a 14-15 anni, tutti hanno visto un filmato porno in qualche modo su un sito da un amico, e a 16 anni tutti hanno avuto dei rapporti sessuali o quasi, quindi mi sembra una manovra veramente ipocrita. Guarda, la impediremo con tutte le forze. A parte che tecnicamente è impossibile, cioè tecnicamente è praticamente impossibile definire una cosa di questo tipo. Ci sono mille modi per aggirare questo, perché quali sono i siti da bloccare e quelli che non sono da bloccare? Uno lo può aggirare, eccetera. Ci sono mille social, ragazzi, su cui avete rotto i coglioni. Libertà, di vedere il porno. Poi i genitori ovviamente si regolano con i figli minori. Ma e è cercano che tutti che i figli, che i ragazzi guardino il porno, almeno sanno di cosa si tratta. Questo non lo so, se me è meglio educazione sessuale a scuola, capito, ragazzi, i video sono disturbanti, non vanno visti. Ma se facciamo vedere film porno a scuola, la gangbang non fanno male a nessuno. Secondo me, però adesso definire educazione sessuale una gangbang con 10 maschi che si inculano una non è educazione sessuale. Adesso oggettivamente è una cosa divertente da vedere, anche eccitante in alcuni casi, però diciamo, beh sì, è eccitante per alcuni, perché poi vuoi impedire che la gente si ecciti, non ho capito. Ma fate quello che volete, ci sono altre mille maniere, mille modi. Ragazzi, Ascanio, sentiamo Ascanio. Ma che me ne frega a me? Signor Ascanio, fra poco chiameremo una signora. Ascolta, non si sente un cazzo. Ascanio, scusa, togliti. So che è da un po' di tempo che sei in onda, che vedo là il tuo nome, ma devi togliere via voce l'auricolare, altrimenti non sento un cazzo. Allora, aspetta, che mi fermo. Devi fermarti. Bravo, fermo, tranquillo, ma non troppo. Bravo, fermati, prendi in mano il telefono, leva il Bluetooth. Perfetto. Dimmi. Prendo in mano il telefono. Allora, Giuseppe, io volevo intervenire per quanto riguarda ieri. C'è stato un signore, un certo Roberto, che era un titolare di un sexy shop. Sì. E io sono un titolare di un sexy shop qui ad Arezzo. Ecco, ma perché chiamano solo i titolari di sexy shop? Ma non è vero. Tu confermi, Ascanio, che l'oggetto più venduto nei sexy shop è quella specie di vibratore con il telecomando a distanza? L'oggetto più venduto statisticamente è il Rabbit. Il Rabbit si chiama, cioè, è lo stimolatore del punto G e lo stimolatore del clitoride, tutto in uno. Questo è l'oggetto più venduto, ma non ho chiamato. Io conoscevo il film che ha incastrato Roger Rabbit. Quello sì, Parenzo prende il nome perché lo stimolatore del clitoride, la prima versione era un coniglietto. Conoscevo il film che ha incastrato Roger Rabbit, ma non sapevi che c'era uno stimolatore del clitoride? Non esiste nemmeno l'esistenza, non eri a conoscenza. conoscenza che esiste. Ti chiedo scusa, no, non lo sapevo. Scusate. Cioè, tu puoi sapere, qualcosa, tu sai tutto, sì, magari di Draghi, no, di Mario Draghi. Ma no, non lo so se tutto. Cioè, sempre troppo poco molte cose so, di Draghi, sulla BCE, ma non sai che esiste uno stimolatore clitorideo? Mi chiedo scusa, ma non lo so io. Mi chiedo scusa. Sei bocciato al test di zanzarismo. Può essere, può sei bocciato essere, al test di zanzarismo. Con orgoglio. Bocciato. Sì, dai, sì, dimmi Ascanio. Io avevo chiamato per quanto riguarda, che lui aveva affermato, sì, che dunque, banche... Tu dici che non è vero che le banche ti impediscono ma di aprire? No, assolutamente. Io ho capito, però la sua esperienza è quella. La sua esperienza è quella. E che ti devo dire? No, allora, ascolta, no. C'è da dirla tutta. Allora, il discorso è questo. Perché detta così, sembra che le banche hanno un'etica bancaria. No, non etica, per me non, un'etica bancaria. Per me non è un'etica quella là, impedire a uno di aprire un conto perché è titolare di un sexy shop, francamente non è etica, è stupidaggine. Se è vero, ma io ci credo perché però, un mio amico lo conosco, Roby, per cui... No, Giuseppe, però a meno che, ascoltami, a meno che tu non sei segnalato al CRIF come cattivo pagatore... Quello è un'altra cosa, quello riguarda tutti, allora, non solo i titolari di sexy shop, che c'entra? No, sì, nel senso, questo sì, io te lo dico perché ho fatto per 3 anni, ho fatto il presidente di un consorzio che abbiamo fondato ed eravamo... Vabbè, ma quello se uno ha difficoltà ti posso anche non aprire un conto, però questo non dipende da... Lui dice proprio se sanno che sei titolare di un sexy shop oppure c'è una società che lavora nel mondo adulto, non puoi aprire un conto. Comunque non è che non puoi aprire un conto, ti dicono no, noi non facciamo queste cose, eccetera. Ma Giuseppe, ascoltami, io è da 20 anni che ho capito, ma io lo conosco benissimo, Roby, è un amico, cioè è chiaro che... Ma, scusa, e Parenzo può dire come fai, perché devi avere un amico che lavora nei... Dove ce l'hai? Sì, no, ma è singolare. A Milano, ma qual è il... Ma non può lo so, dire il nome adesso, sì, non mi ricordo il nome, cioè qui sulla circonvallazione vicino alle 24. È proprio a Milano oppure Milano città, Giuliano? Milano città. Ah, Milano città, ho capito. Vabbè. Per te non è così. Ciao Ascanio, ciao. No, ciao, ciao ragazzi, ciao. Allora ragazzi, ieri mi sono arrivati dei messaggi, non dei messaggi. Abbiamo preso degli audio che sono particolarmente forti, ve lo dico subito, che sono di una signora che pare che faccia la barista a Verona. La barista a Verona, giusto ragazzi? La barista a Verona. Ora, bisogna fare una premessa prima di ascoltare queste cose, perché in giro ci sono molti matti, eh? Noi li mandiamo in onda i matti, per carità. Li sfrugugliamo, gli rompiamo i coglioni. Questa qua è una, si chiama Monica, fa la barista. Dice delle cose contro la Lamorgese, contro la Bellanova, molto gravi, molto gravi. Dice innanzitutto di essere stata molestata da 2 immigrati. Senti. Mi sono presa 2 ore libere e sono andata a fare un giro sul lago Sirmione. Sono stata molestata da 2 extracomunitari che la signora Bellanova ha deciso di fare la sanatoria. La Lamorgese li fa arrivare tutti. Il signor Conte, ovviamente per non mollare la poltrona, perché così sennò perderebbe i suoi bei soldini, permette tutto questo. Allora, questa Monica ha detto in un altro audio, in altri audio, che mi auguro che la Lamorgese, la Bellanova e la moglie di Conte vengano menate e stuprate. Facciamo ascoltare oppure soprassediamo, caro Davide, soprassediamo. Dimmi tu. Cioè è cronaca questa qua, eh? È cronaca. Io però segnalerei il nome di questa persona. Certo, ma lo sanno già le forze dell'ordine, immagino. Monica, perché una barista in provincia di Verona. Agghiacciante. Facciamo ascoltare questo qua, ma non lo so, forse è meglio dirlo solamente. Allora, mi auguro che la Lamorgese, Bellanova e la moglie di Conte vengono menate e stuprate. Auguro alla Bellanova e alla Lamorgese tutto il male possibile. Mamma mia. Conte, spero che capiti a tua moglie. Poi dice: girerò con un'arma. Questo lo possiamo far sentire. Senti. Adesso sono costretto a prendere provvedimenti. Ovviamente non girerò più solo con un marsupio con dentro un po' di soldi, la patente, il telefonino. Girerò con un'arma. Mi permetterò di girare con un'arma per proteggere me stessa. Mi faccio il porto d'armi e se occorre gli sparo anche, perché io non ho più nulla da perdere, perché una volta che mi hanno violentato, stuprato e picchiato, io non concedo più nulla, avete capito? Chiamiamo. Sì, pronto? Sì, Monica? Sì, buonasera, qui Cruciani, Radio 24, ciao. Sì, ciao, dimmi. Senti, io ho visto i tuoi video, sì. quelli che hai pubblicato. Sì. Beh, sono video un po' forti, diciamo, per usare un eufemismo. Un po'. Certo. No, nel senso un che... Un video vero. Sì, d'accordo, sarà anche vero, però se uno si augura che una venga stuprata, che l'altra venga stuprata, che l'altra venga violentata, capisci che siamo in un altro ambito, cioè non è che non c'è una critica, è un auspicio che ad alcune persone venga fatto del male, e anche in maniera pesante, cioè è una vergogna. Beh, ma se uno ti porta uno stupratore a casa e non te lo dice... E quale sarebbe lo stupratore, scusa? Se te ti portano uno stupratore a casa e non te lo dicono, e tu vieni stuprato, sì. Tu chi ringrazi? No, l'amico tuo che te l'ha portato? Ma di chi si sta parlando in questo caso, scusi? Chi ha portato lo stupratore? Allora, è stata una sanatoria, stanno entrando milioni di migranti. Milioni. Così, e poi non ho capito che entrano gli stupratori, non ho capito, non è che c'è... Entra di tutto, picchiatori, stupratori, entra di tutto. Anche baristi coglioni, ci sono però, no? No, non penso, però... i baristi sperano di lavorare. Scusami Monica, io non ti conosco, però se una in un video dice la Bellanova va stuprata, violentata, mamma Conte, mia. La fidanzata di Conte va eccetera eccetera, la Lamorgese non ne parliamo perché poi mi fa orrore anche pronunciare quella parola, cioè capisci che è una cosa di una gravità inaudita, o non pensi? Sono punti di vista. Ma come sono punti di vista? Ma se uno si augura che lascia perdere che siano personalità del mondo delle istituzioni, chi se ne frega, potrebbero essere anche persone comuni. Mi auguro che il ministro venga stuprato. Amica mia, ma non è una cosa che uno può dire con tutta questa tranquillità. Cioè semplicemente perché racconta di essere stata molestata a Sirmione? Cioè, sono stata molestata a Sirmione, non so se sia vero o no. Mettiamo anche che sia vero, che sei stata molestata a Sirmione. Che ti è successo? Sul video l'ho detto, non c'è bisogno di dire di più, credo. E adesso vuoi girare con un'arma? Ma questi sono cazzi miei. No, l'hai detto, scusami, ma l'hai detto tu. Ma cosa devo fare? No, ma niente. Devo aspettarmi le detto di voi, che siete tutti conigli e codardi. Noi siamo conigli e codardi perché non giriamo con la pistola, non ho capito. A parte, dovreste presentarvi qui. Dove? Per parlare con me. No, ma io sto chiamando, mi sono presentato, Giuseppe Cruciani per Radio 24. Ma non è sconosciuto, sto chiamando dalla redazione di Radio 24, dalla radio. Ti sto chiedendo, siccome hai pubblicato dei video in cui dici delle cose gravissime sulla Bellanova, sulla Lamorgese, su Conte, ma a me non mi stanno né antipatici né simpatici questi qua. Evidentemente tu li odi questi qua. Li consideri. A me non può piacere, sinceramente. Sì, uno può non piacere, ma non è che uno si augura lo stupro delle persone. Ma la capisci la differenza tra la cosa ci hanno augurato a noi? Ma non loro chi? Hanno portato qua in Italia. Ma chi ha portato in Italia? Chi? Posso chiedere per chi ha votato lei alle ultime elezioni? No, siccome il suo video è stato diffuso da alcune persone che fanno parte di un gruppo che è Luca Zaia per il Veneto. Io non voto. Tu non voti? No. Alle ultime elezioni non hai votato? No. E tu hai paura a uscire da sola? Dici che bisogna avere paura a uscire da sola? Certo. Ma dove in Italia? Una bambina di 3 anni che è stata stuprata da quel nero che poi 3 anni si è fatto di galera. Bello, vero? Pamela? Ma non lo so, ma ci sono dei casi. Ma a pezzi dai migrati. Ma cosa vuol dire? Scusa, cosa vuol dire? È il mostro del Circeo? È il caso di Avezzana? È il caso di Avetrana? E Avetrana? Chi è stato ad Avetrana? I maroccoli che tirano addosso le auto, i neri, il carabiniere che è appena stato appestato, di questo voi non parlate. Ma voi chi non parla? Ma parlano tutti, tra l'altro. Girano cioè le notizie girano, non c'è più. Non è che esiste che non si parla di queste cose. Una cosa è parlare. Voi nascondete tutto perché vi fa comodo nascondere tutto. Arrivederci, grazie. Ma tu hai parlato di stupro! Vergogna! La Zanzara. Parenzo. Secondo me sta storia che Cruciani vuole sbiancarsi il dente è un modo pelato per dirci che vuole sbiancarsi il culo. La Zanzara. Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Wait for me. Sai che cos'è che non sopporto, Davide? Quando qualcuno butta giù il telefono, dunque io richiamerei la tipa di prima, cioè quella che ha minacciato, quella che si è augurata lo stupro a tutte le istituzioni possibili e immaginabili, perché non sopporto l'idea che qualcuno butti giù il telefono. Richiamatemela un attimo questa qua. I'm only human, so let me be. Let me be. ancora. No, l'hai già comprata la pistola o no? Perché c'è stato un annuncio. Hai detto tu che avresti. Sì, da questo momento io in poi. Ho detto che poi prenderò il porto d'armi. Sì, prenderai il porto d'armi. Prenderai il infatti te lo daranno sicuro il porto d'armi. Te lo daranno, guarda. Ma puoi figurati. Stare sicura che il porto d'armi te lo daranno immediatamente. Ma te lo daranno. Comunque, la cosa che deve essere chiara è questa: uno non può augurarsi lo stupro delle persone. Cioè, tu hai detto delle cose di cui non ti rendi nemmeno conto della gravità. Questo è il punto fondamentale. Anzi, le ribadisci, le confermi. Ma capisci che cosa significa augurarsi lo stupro delle persone? E loro hanno capito che hanno fatto entrare in Italia, no? Ma chi non hanno fatto entrare? Ma un altro discorso. Li commettono solo gli immigrati, mi faccia capire. Ma non ho capito. Non ho intanto voglio il vostro numero di telefono. Ma io, tu ma io voglio il suo, le sue generalità. Io voglio le sue generalità. Si sapere chi gli ha dato il mio. Vada a costituirsi, vada a costituirsi alla polizia, vada in questura. Per istigazione all'odio, alla violenza. Vada disturbando, ma io lo posso anche denunciare il numero di telefono. Ma figuriamo, tu hai pubblicato, amica, tu hai pubblicato. No, ma che paura, ma di che cosa? Però chiama con il numero vero, dai. Ma è uguale, il numero vero è il centralino di Radio 24. Centralino di Radio 24, non ti preoccupare. Lorenzo Da Lucca, avanti tutta. Lorenzo Da Lucca, numero vero. Lucio. Che cazzo di numero è? La gente è incredibile, dice delle cose e poi dice chiama dal numero vero. Ma rispondi, che no? Sì. Cioè, beh, dice auguro lo stupro a tutti. Quello deve essere menato, deve essere stuprata. No, dammi il numero vero. Ma dammi il numero vero, cosa? Quello che fai è inquietante. Ma che c'entro io? Scusa, no, nel complesso, dico nel complesso. Sei veramente è un giudizio complessivo. Lorenzo Da Lucca, dai, Lorenzo Da Lucca. Lucio, una grande sorpresa, ragazzi. Rimanete là incollati dove siete perché c'è una grandissima sorpresa. Presa fra poco, beh, è un personaggio pazzesco. Lorenzo Da Lucca, il grande mito del porno italiano che si è ritirato, ma tutti quanti voi lo riconoscerete. Non vi dico niente, perché poi bisogna vedere se pigliate. Chissà che sorpresa, Lorenzo Da Lucca. Che sorpresa, non vi dico niente. Stai zitto. Dimmi Lorenzo, dimmi. Ascolta, io ti devo dire una cosa, mi scusa, scusa Farenzo, ma io non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di lui e la puttana di parole che gli fa un pompino alla caipirinha. Scusami Farenzo, ma io non me lo tolgo dalla testa. Ma non guardi. Scusa. A me spiace deludere, scusami. Ti ha chiesto anche scusa. Ma non chieda scusa, stia zitto, non telefoni, cambi trasmissione. Hai ragione, io non riesco a togliermi dalla testa il fatto che una persona alle 20:24, anzi prima perché sarà stato mezz'ora al telefono, telefono. Ma se quello nella testa, io che paese è questo? Ma poi se non uno nella testa, posso chiedere per chi ha votato le ultime elezioni? Ma magari per chi ha votato? Io non ho ancora votato, ecco, appunto. Per chi voterebbe però lei se oggi, se ci fossero delle elezioni oggi, per chi sia sincero? No, non me la sento di votare, non se la sento. Ancora perché gliene frega? Allora, questa è l'Italia, ecco, piace pensare ai confusi, certo, idee confuse. Uno di quelli che non vota non gliene frega un cazzo di come vanno le istituzioni, di come va il mondo, non gliene frega bello, niente. Bello, esempio, nulla di bello, nulla. Bello. Dimmi, Lore, dimmi. Allora, cioè, l'immagine fissa che hai è quella, l'immagine è fissa. Quella, è quella. E poi, comunque, volevo dire anche un'altra cosa: che tanto qui si diceva, alcuni dicevano che bisognava aprire, eccetera, la Germania. E intanto, la Germania, però, ora i contagi a nord sono aumentati. Volevo dire anche questa. Ma questo cosa, non c'entra niente, sono dei contagi particolari. Ci sono anche degli ospedalizzati, ma non vedi sono che tantissimi. Almeno una cosa intelligente la dice. No, vedi, ma in un posto particolare, ragazzi, ma non dite cazzate. Cioè, in alcuni mattatoi, ma questo non vuol dire nulla. Non vuol dire niente. È un cluster. Bisogna stare attenti. Bravo, ma che frase è? Bravo. Ma che frase è? Dai, su. Se non si vuole bloccare attenti, tutto il paese, dai, di nuovo. Su. Esatto. Ma che vergogna, dai. Mi dà ragione anche Parenzo, scusami. Ciao. Beh, Lore, su questo ciao, certo. Ciao. Allora, ragazzi, è molto interessante una specie di cat fight, chiamiamolo così, di Twitter fight, di social fight, in cui sono impegnati Carlo Calenda, l'ex ministro Carlo Calenda, sì, no, e il signor Briatore. Sì. Tutto nasce da una frase che Calenda, cioè Briatore, prima ha detto: propongo una petizione per chiedere i danni al governo che ha distrutto il paese. Opinione legittima, naturalmente, no? Un po', diciamo, forzata, si può dire, ma insomma legittima. Calenda ha detto: questo tipo è stato condannato per gioco d'azzardo e bische clandestine e si è pure dato latitante, cacciato dalla FIA, che è la Federazione Automobilistica, per brogli, condannato in secondo grado per reati fiscali. Però mi raccomando, ragioniamo intensamente sulle sue proposte, che di cazzeggio siamo a corto. Allora, poi si è corretto dicendo che non era una condanna definitiva. E poi pare che non sia, anzi no, sicuramente non è stato cacciato dalla FIA. Insomma, secondo me gli avvocati di Briatore sono già in azione. Ma però per cosa, il litigio, per quello che ha detto, ma magari vabbè, ha detto delle cose sbagliate. Anche lui sia sportivo, anche briatore. Dai. Se uno ti dice cazzate che sei stato condannato, no, che fai? No, è la, la televisione, lo scontro, dai. Senti, briatore, senti, briatore. Calenda è un palloncino gonfiato, cioè lo vedi, appena lo vedi sembra quei palloncini. Io non so come mai Calenda io susciti così tanto interesse da lui. Poi non c'è competizione, perché lui, parliamo dell'inizio, no? Poi alla fine c'è la competizione. Lui nasce ricco, a 11 anni era già in brillantina, a Borotalco, e girava film. Io la sua età raccoglievo le mele, quando finivano le scuole, che erano le scuole elementari, andavo da mia cugina a raccogliere le mele. Lui fa parte di quelli che hanno mai lavorato, fanno errori di miliardi, perché poi la Italia è costata miliardi, perché loro non è che sono interessati di far bene o male, loro sono interessati a rimanere lì, a loro cosa interessa è il potere. Ho chiesto quanto paghiamo di tasse, così per rinfrescare un po' la memoria a tutti questi catto comunisti che sono solo gelosi e invidiosi. Noi paghiamo ogni anno circa 1 milione di euro più che meno tra i due posti, per cui in 20 anni ho pagato più di 20 milioni di euro. Mi auguro che tu aumenti di consensi, ma mi fa proprio strano che la gente ti dia il voto per rappresentare dopo i casini che hai fatto, eh? Bravo, ciao Calenda, in gamba, attaccami di nuovo. Risposta calendiana, Briatore Trump in sedicesimi. Senti Calenda. Tralascio ovviamente la parte in cui il Briatore ci spiega che tutti facevano a gara per portargli le borse, che lui ha fatto un sacco di soldi, tipo Trump in sedicesimi. Briatore, non mi fa impressione, francamente. Rispondo alla questione, vivo a Monte Carlo, che problema c'è? Nessuno, Briatore, vivi a Monte Carlo, c'è l'aereo privato, va in giro con lo yacht, zero problemi. C'è solo un problema, che non puoi sempre stare a parlare delle persone che muoiono di fame, persone che non arrivano a fine mese, senza dire una soluzione, perché allora è populismo d'accatto, di quarta, e anche un po', come posso dire, ipocrita e urticante, detto da te. E dai che ti do degli spunti per in onda. Molto no, bene. Degli molto spunti bene. Per in onda. Mi sembra dai. Interessante dal punto di vista di Calenda, eh? Molto interessante. Calenda dice leggi e studia alla fine. Molto leggi incisivo, e studia. Molto ma incisivo che... Ma dai, io sto, 2-0. Io sto con Briatore. Ma no, stai perché? Sui fatti, a prescindere. Perché così. Uno dice una cosa perché in televisione. Perché ti avrà ospitato gratis da qualche dei suoi resort. Uno dice una frase in televisione, l'altro gli deve ricordare le sue condanne, il passato di 40 anni fa. Ma che cazzo faresti dire, tu? Dai. Di cosa faresti tu, dai, anziché pontificare su tutto? Ma dai. C'ha ragione Calenda. Leggi, studia, ripassa e ritorna. Prima pedalare, o meglio nel tuo caso navigare. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Che cosa devo dire a lui per convincerlo ad andare con te? Perché va, lui... lo fa un bello bocchino. Sì, d'accordo, quello va bene. Vado le case, un bocchino che lui mai ha ricevuto in vita sua. Sì. Cari ragazzi, sono qui a Barcellona, nel porto, e ieri ho scopato Algerina squirtatrice, fatta squirtare con la mossa Spider-Man di Memorie Zanzarose, e... quindi Allah è grande, Allah Akbar, Maometto il suo profeta, e I love my radio. Molta gente sogna la laurea, il posto fisso, fare una famiglia. Io in testa ho una cosa sola, l'incontro finale tra Priscilla Salerno e il turco. Maledetti! Cosa? Allora ragazzi, il collegamento da Cannes, caro Parenzo, non ti scaldare troppo, so che non è il tuo momento, però devi cercare di essere efficace, devi cercare di tirare fuori anche tu delle chicche da questa persona che è stato per me, insieme a tanti altri, per carità, Però tra i miti, tra i miei miti della gioventù, tra i miei miti della gioventù, non c'era solamente, come dire, la facoltà di scienze politiche a Roma, che ne so, la Lazio, le donne, eccetera, c'era anche il mondo del porno. Ma non c'è dubbio, quello c'è stato solo quello, soprattutto quello per il 90%. VHS, spesso che circolavano così anche dal mio edicolante, per esempio. Il mio edicolante, andavo di notte, c'aveva una pila di VHS, me li dava, io poi restituivo. Insomma, tra questi grandi protagonisti del porno di un tempo, non è che stiamo parlando di chissà quanto tempo fa, però insomma una ventina di anni fa, forse più, c'è sicuramente una persona che magari come nome non ti dice niente, ma per gli amanti del genere è stato un grandissimo. Da Cannes, Roberto Malone, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Come stai? Io sono qua alla grande, siamo usciti dal coronavirus e adesso... Ci facciamo le corone con la vodka. Perché devi sapere che Parenzo, che Roberto Malone, dopo essere stato non conoscevo porno, per la verità. Non conosce, praticamente un personaggio più tarchiasso, non so bene le misure. Il pisello fra poco ce lo dirà se è regredito nel tempo oppure poco, no. È poco interessante. Beh, però, no, il porno è molto interessante. Ma è un personaggio scuro di carnagione, pur essendo originario di Torino, un po' scuro di carnagione, che aveva sempre dei ruoli abbastanza strani nei porno che ha girato. Devi sapere che è a Cannes dove ha dei ristoranti e ha abbandonato praticamente il porno da quanto tempo, Roberto? Sì. Allora, io praticamente da 3-4 anni che ho fatto l'ultimo film, perché diciamo che il porno non ha più il senso di prima, non c'è più il budget, non c'è più sono è morto, non c'è più dici, è morto, non si guadagna più come prima, non si guadagna, è all'agonia. Faccio altre cose, io una struttura, un ristorante, un grosso bar, discoteca. Ma hai fatto i soldi hai fatto i soldi col porno o no? Tu? C'è un no, po' non li ho fatti col porno, ne ho guadagnati tanti, ma ne ho spesi tutti. L'hai spesi tutti. Senti, ma oggi se ti chiamassero, ma hai fatto benissimo. Come li hai spesi questi soldi? In vizi? In che cosa? No, l'ho spesi, perché se guadagnavi tanto, spendevi tanto. Poi dicevi, tanto sto lavoro finisce più. Poi è arrivato un signore che si chiama Internet. Sì, che ha fottuto tutto. Senti, no, però devi capire una cosa, Davide, che Roberto Malone ha girato con i più grandi registi, con le mamma più grandi attrici, eccetera, ma eccetera. Non vuole parlare con l'ultimo, lui, mamma mia. L'ultimo film quando è stato? L'ultimo film, diciamo. Ma io l'ultimo film ho fatto la parodia di Dominique Strauss-Kahn, che era il presidente della Banca Mondiale, che doveva essere presidente della Francia. Sì. E questo è lo scandalo che è successo a New York. Con la domestica che praticamente sì come no la parodia di Dominique Strauss-Kahn si chiama DDXK come? E quindi lo potete trovare su internet com'è che si chiama scusa DDX D come Domenico sì. X come X senti una cosa, ma tu oggi, che ne so, se ti chiamassero a fare un porno, lo faresti oppure costi troppo? Ma io non ho nessun problema di funzionamento, io non cioè, ti funziona ancora tutto? Io sai che uso il Viagra per calmarmi quando sono troppo eccitato. Addirittura? Sì. Ma l'hai usato tu nella tua carriera o no? Non l'hai mai usato. All'epoca quando funzionavi o ti cacciavano, hai capito? Per cui non c'era il tempo di... Eravamo per 20 anni 5 attori d'Europa. Poi è arrivata la magia delle punture, del viaggio. Sì, oggi molte punturine, a Praga. Sì, molte... sono tutti bravi adesso. Lo sai che l'ho fatto una volta pure io la punturina, ma non l'ho fatta per eccitarmi, l'ho fatta per fare un controllo. Perché praticamente adesso ti rivelo questa cosa qua. Cioè per fare un controllo al pene in estensione, cioè fare una specie di ecografia, no? È vero, Davide? L'ecografia al pene, esatto. Ti devi fare anche, se vuoi lo puoi fare col pene moscio, ma se tu vuoi fare un'ecografia, ti devi fare una punturina. Ma perché uno deve farsi fare questa roba? Per motivi medici, che c'entra? Ma sei l'unico che conosco che ha sempre male al cazzo! L'unico! Fammelo dire, come mai ogni giorno ne hai una? Perché? Ma adesso io esplodo a un certo punto. Tu che problema? Ogni volta che parli di sta cosa, dimmi, ma usalo di meno, no? Ma porca miseria. Quando cambi partner, allora non c'è problema di nulla. A volte la ti fa diventare il cazzo moscio. Sì, questo è vero, questo è vero. Tu dici, nella chiudere. Tua vita tu hai sempre cambiato partner, mamma sei sempre mia, stato uno molto libertino, mia, anche con tua moglie. Ma io ho avuto due mogli e sì. Adesso sono libero, ma un libero convivente, nel senso che la persona che convive con me non mi rompe il cazzo. Se voglio fare una ragazza di 18 anni me la faccio. Sì. Non hai problemi da questo. Non sa niente, non deve capire niente, non vuole sapere niente, non vuole vedere niente. Però praticamente sei libero. Quanti anni hai adesso, Roberto? Scusami. 63. 63. Ottobre 64. Io sono. Sì, sei del 56. 31 sì. Ottobre. Scusami un attimo, le tue misure si sono mantenute? Cioè, io mi ricordo un tuo cazzo largo, piuttosto largo. La tua caratteristica è avere. Non era tanto la lunghezza. No, era soprattutto il fatto la larghezza. Dunque 18 centimetri se non sbaglio 18 no, centimetri ma qualcosa in più qualcosa dai, diciamo in più 18, ma non sono delle misure stravaganti però era largo soprattutto largo e morbido sei era il cazzo preferito di Cittolina quando glielo dovevo mettere nel culo perché aspetta questo è fondamentale fammi sentire è l'unico che non mi fa male così dice sì perché sarà grosso ma non mi fa male beh amico mio tu pensa ti racconto un aneddoto sì un giorno stavamo da Buonanima da Riccardo Schicchi a fare una cena con Ilona. Sì. E a un certo punto mentre passavo questa scena c'erano i primi telefoni cellulari lei era candidata del Partito dell'Amore eccetera sì. Suona il telefono mentre stavamo girando io continuo la mia scena ed era Bettino Craxi al telefono con Ilona addirittura. Sì, era Bettino Craxi perché stavano studiando come tu che stavi facendo? Te la stavi inculando oppure era una scena? Stavo inculando, sì. Sì, tranquilla. Lei ha risposto. Lei ha detto, tranquillo, continuo perché tanto è Bettino, non c'è problema. Magari gliel'ha detto pure al telefono a Bettino che si è un po', magari si è anche un po' ingrifato. Che stai facendo? Sto facendo una scena. Ma non c'è problema. Quello era un vecchio porcone, Davide. No? Io l'adoravo, era stupendo. Senti una cosa, tu hai fatto il conto di quante donne, diciamo, tra sette e fuori dal set? Perché tu sei anche uno che scopava fuori dal set come un pazzo. Diciamo io adoro scopare dentro e fuori. Allora, diciamo che come partner di set. Siamo sulle 3.000, 3.500. Sì, ma sì, pensa te che credo... c'è Robert Cannuna che è in Israele e tra qualche giorno avrà. Che conosce Roberto Malone? Che conosce Malone? Sì, avrà certo un figlio, che lo conosce. E quindi gli facciamo gli auguri. Chi se ne frega? Come chi se ne frega? Allora? E mi ha scritto, mi sono appena collegato alla Zanzara. Ma chi è il grande Malone? Cioè lui ma c'è Malone, ma certo che Malone, se lo ricorda. Sì. Ma normale, ma il grande Cannuna? Io sono sulla Costa Azzurra. Allora mi faccia un saluto Malone a Cannuna per piacere, al grande Robert Cannuna che sta male? Per diventare papà. Io almeno un grande saluto a Robert Cannuna. No, Cannuna. Vabbè, ebreo. Cannuna con l'H davanti. Cannuna. Ma chi se ne frega. Cannuna, sì. Comunque 3.500 sul set, si arriva a 5.000 più o meno. Ho perso il conto perché il mio contabile mi ha detto smettila di contare, altrimenti dobbiamo pagare tasse. tu lo sai, David, che praticamente Roberto Malone per un periodo ha nascosto praticamente alla prima moglie che faceva credo, il porno attore. E ti credo. E cioè ti andava, credo, usciva da casa, vero, come un impiegato qualsiasi. Poi a un certo punto lo ha saputo anche. Come l'ha saputo tua moglie che poi ti ha lasciato? Ascolta, mia moglie l'ha saputo, mi ha lasciato un po' di tempo dopo perché. Ma allora, mia moglie aveva una cugina che era un po' zoccola e andava nei cinema porno all'epoca. Pure, c'erano i film in 35 ma che bella film, famiglia, sì. Ma che bella e famiglia. Quindi, ma no, ma mia moglie era proprio una santa. E però la cugina era la zoccola della famiglia, sì. E andava a farsi trombare in questi, io non so, andava a cercare qualcosa e ti ha visto mi ha visto e gliel'ha detto a mia moglie, capito? Vabbè, incredibile. Senti un po', all'epoca non c'era internet, non c'era niente, non c'era certo, nulla, l'unico modo per essere scoperto era che qualcuno andasse al cinema, è chiaro. Ma come fanno a scoprirmi che devi andare al cinema per trovarmi, capito? Senti Roberto, ma all'epoca io mi ricordo che in realtà l'anal non era tra le cose più praticate, era un'eccezione l'anal, lo sbaglio? Cioè... No, l'anal era praticato da poche attrici, infatti gli attori americani noi ci facevano le pippe a noi perché... gli attori americani era il pompino, la missionaria, sì, è una posizione classica familiare, sì. Quindi quando sono venuti qua gli attori americani che hanno visto come lavoravamo noi, facciamo le doppie penetrazioni, sì, le doppie anali, questi qua sono andati in crisi. Senti, ma tu anche oggi sei ti piace molto andare, andare con persone più giovani, diciamo, no? Cioè, io adoro le ragazzine, io arrivo qua a casa. Maggiorenni, specifichiamo sempre. Sì. Non 15, 16 anni, parliamo di 18, 20 anni, 22, ma anche perché c'hanno un po' di succo. Qui a Cannes, immagina, io vivo qui da 10 anni, c'è il festival, ci sono gli eventi, ci sono eccetera. E quindi qua c'è una compilation di figame pazzesco. Ma anche alla tua età ancora riesci a rimorchiare queste ragazzine? Ma sono loro che mi cercano, perché gli fanno impazzire gli uomini maturi, sai? Mamma mia, che tristezza, ragazzi. Che tristezza. Spettacolo. Devi sapere che Roberto Mallone una volta è stato candidato in una lista della signora Mussolini. Nessuno lo sa questa cosa qua. In una lista... questo è successo anni fa, Ma ti arrapava un po', la Mussolini o no? La Mussolini mi faceva sangue da paura, capito? Però, era difficile. Per me la Mussolini era di quelle che dovevi mettergli la benda agli occhi, legarla al letto, fargli una violenza. Però era difficile, violenza diciamo metaforica. Era sposatissima, fedelissima al marito e quindi ha una bellissima famiglia. Ma però la carogna mi è salita qualche volta. Per forza, la famosa carogna di un porco. Senti, no, però devi sapere che Almirante è il suo politico di riferimento, il signor Almirante. Almirante era il più grande politico del dopoguerra. Ma oggi chi voteresti tu in Italia, Roberto? Chi voteresti in Italia? Ma chi posso votare? Ma che ne so, ma dimmi chi sei. Ma non lo so, Salvini lo voteresti? Salvini. Salvini è simpatico per fare una serata in discoteca, per fare La Meloni, già col tacco a spillo da 12 eccetera mi potrebbe dare un senso di libidine. Senti, perché è piccolina, me la posso far girare sopra. Rimani sempre un vecchio porcone, rimani sempre un vecchio porcone. Io se non sono così, ho bisogno di avere i miei 3-4 orgasmi alla settimana. Senti, quelli belli, fatti bene. Una cosa sola: un regista, Salieri, che conosci bene, intervistato da un grande maestro, ha detto da noi che Moana era una cattivissima attrice, che sul set era un disastro. Chi era? Moana Pozzi ha detto era pessima come attrice, praticamente di legno, era molto difficile girare con lei. Io con Moana mi sono trovato molto bene perché c'era un bel film. Ma è vero che non era una brava attrice, secondo te? No. No, ma diciamo che era mediocre, ma all'epoca era il suo momento, quindi guadagnava un sacco di soldi a film. Ma come attrice sul set era brava oppure come dice Salieri era meglio? Dipende con chi lavorava. Tu la facevi lavorare bene, diciamo. Io con lei mi sono trovato sempre bene, non ho mai avuto dei problemi, e invece altri magari sono trovati più, forse perché era il personaggio, perché sai, chiaramente lavori con un personaggio, sono gli attori che si sentono un pochino in imbarazzo sul personaggio. Tu figuriamoci, imbarazzo mai, ragazzi. Fermi tutti, grazie Roberto, a presto, ciao. Ciao. Andiamo tutti a Cannes, italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Capezzone, è meraviglioso.